Monelle, racconti giovanili di Devana. Il tesoro. Mi chiamo Giannina. Dicono che io sia una ragazza dall'intelligenza acuta e brillante. Detesto la società che mi costringe, come tante mie coetanee del resto, a fare un mestiere qualsiasi, tanto per tirare la lira a fine mese, come si dice. Un mestiere per il quale non mi sento tagliata. Puh, la segretaria. In realtà vivo quanto più mi è possibile in un mondo tutto mio di gnomi, di elfi, di draghi e maghe con cui parlo continuamente. In quel mio mondo non smetto un momento di inventare storie. Un sabato pomeriggio, a spasso per il centro, comprai un pacchetto di chewing gum, ne scartai una e all'interno trovai una pubblicità di un concorso Scopri il tesoro. Una piccola mappa con croci, teschi e itinerari. Masticando distrattamente entrai in un bar e ordinai una cioccolata. Ma mentre aspettavo, cominciai senza pensare a disegnare la mappa della cartina su un pezzo di pergamena di cui avevo sempre le tasche piene. Fu così che ebbe inizio quella stupenda avventura che ora vi sto per raccontare, chiacchierando come al solito con i miei draghi e dimenticandomi come al solito di pagare, uscii dal bar nella strada affollata. Il rumore mi infastidiva terribilmente, così mi infilai nel primo edificio che trovai. Era un grande magazzino. Cominciai a girare tra gli scaffali, prendendo in mano con aria assente ora questo, ora quello. Mi capitò anche di sollevare una scatola di biscotti di cui la televisione stava facendo una pubblicità asfissiante. Per dispetto, lasciai scivolare la pergamena con la mappa dentro la scatola. E sorridendo lievemente la rimisi a posto. Proseguì. Poco dopo un ragazzo sui 16 anni, vestito secondo gli ultimi dettami della sgangherata moda giovanile, si avvicinò allo scaffale dei biscotti, prese una scatola e si avviò alla cassa per pagare. Guadagnando l'uscita, il ragazzo aprì la confezione per mangiarne uno subito e tirò fuori qualcosa di strano. Sembrava un pezzo di carta. Era la mia mappa. Per combinazione lo vidi e notai che si arrestò di botto, guardò la pergamena in un senso e poi nell'altro, e infine, spiandosi intorno furtivamente, ritornò sui suoi passi tra gli scaffali, ripercorrendo l'itinerario suggeritogli dalla mappa a caccia del famigerato tesoro. Ridacchiando tra me, pensai che il mondo è veramente pieno di allocchi, e fu a quel punto che mi venne l'idea. Tornai a casa come una scheggia, mi chiusi in camera e cominciai a tracciare mappe e frasi sibilline, tipo messaggi in codice su diversi pezzetti di pergamena di cui avevo un cassetto pieno. Il sabato successivo tornai al grande magazzino con un paio di occhialoni scuri e le tasche piene di mappe, tutte diverse tra loro. Non che gli occhiali mi servissero. Fisicamente sono così anonima che non mi noterebbero neanche se corressi nuda per la strada con un papillon giallo intorno al collo. Ma faceva molto poliziesco e mi aiutava a immedesimarmi nella parte di Sherlock Lupin, il mio idolo, ladro, detective, gentiluomo. Dissimulandomi, cominciai a inserire i rotolini di pergamena nelle più svariate confezioni di generi di consumo, dalla scatola del tè a quella dei formaggini, da quella del dentifricio a quella del detersivo, da quella della tinta per capelli a quella dei cartoncini di succhi di frutta. Quando non riuscivo ad inserire il rotolino, perché la confezione era sigillata, lo appiccicavo sotto, dove si incontrano i lembi del celofan. Nel giro di un'ora, una ventina di mappe erano strategicamente distribuite. Avevo procurato di lasciare le confezioni calde il più a portata di mano possibile, così che fossero le prime a finire nei carrelli delle signore. Congratulandomi con me stessa, tornai soddisfatta al punto di partenza e mi appostai per verificare l'effetto della mia trovata. La prima confezione, quella del detersivo, venne catturata dopo mezz'ora circa da una signora tipicamente da spesa, grassa, trasandata, con impermeabile grigio e foulard. La signora, esperta del 3x2, cominciò a controllare tutti i tagliandini appesi alla confezione. Poi l'aprì e frugò nella polvere dove di solito erano nascosti i ricchi omaggi. E fu così che trovò la pergamena. Inizialmente fece un po' di fatica a metterla a fuoco, poi però si bloccò fulminata. Capì immediatamente, da grande intenditrice, che quel concorso era diverso da tutti gli altri, che c'era in palio qualcosa di grosso per pochi fortunati. Doveva essere stato organizzato dal grande magazzino per i clienti più scaltri e tenaci, tant'è che aprì una dozzina di altre confezioni e non trovò pergamene. Tutta presa nell'ingranaggio della caccia al tesoro, si guardò intorno, controllando che nessuno si fosse accorto dei suoi movimenti. Poi si incamminò tra gli scaffali, contando i passi a destra e a sinistra. A dire il vero, la meta finale ancora non l'avevo escogitata. Per il momento le mie vittime, alla fine del tracciato, non avrebbero trovato nulla. Per quel pomeriggio nessun'altra confezione fu individuata. La signora del detersivo arrivò alla fine del percorso. Frugò e rovistò fino a sudare in un banco di calze e mutandine colorate per bambini da 0 a 10 anni, ma non trovò nulla, se non lo sguardo allibito della commessa che più volte si offrì di aiutarla. Infine, temendo che la signora si sentisse male, tanto era cianotica, la commessa le disse: «La prego, lasci che l'aiuti, sono qui per questo, se lei mi dice cosa cerca». La giovane donna non capì mai il senso della risposta che le arrivò di rimando. Eh già, brava Merla, non te lo dico manco scannata. Uscii da lì e mi avviai verso casa, meditando sul genere umano. Il giorno dopo, però, dopo il lavoro, tornai al grande magazzino per controllare se nel frattempo ci fossero stati altri sviluppi. Dopo qualche giro di scaffali, vidi una signora sulla quarantina molto elegante, nel suo completo Chanel con gioielli, borse e scarpe coordinate. La signora prendeva in mano diversi articoli, li guardava attentamente uno alla volta, poi li rimetteva a posto spazientita. Aveva l'aria di una che non trova quella che sta cercando. Infine, come folgorata da un'intuizione, afferrò il carrello e partì di volata verso il reparto surgelati. Si tuffò nel bancone e cominciò a pescare e a riempire il carrello di ogni ben di Dio, cercando di arrivare al fondo. Con estremo disappunto, però, non trovò nulla e ripartì in un'altra direzione. Ad un certo momento mi accorsi di non essere la sola a osservare la cliente. Il classico pensionato sulla settantina, infatti, la lasciò allontanare e poi si avvicinò guardingo al frigo. Si guardò un attimo intorno, poi, sicuro di non essere osservato, gli si lanciò dentro alla ricerca di qualcosa, rimanendo visibile per un pezzo dalla cintola ai piedi. Lo lasciai così e proseguii nel mio giro. Al reparto carni, una giovane donna con una bambina per mano si stava rigirando tra le mani diversi pacchetti di bistecche e arrosti, cercando qualcosa sotto dove si incrociano i lembi del celofan. Poco più in là, un ragazzo sui 25 stava comprando un pezzo di pane pugliese. «Quanto? Così?» gli domandò la commessa al banco. Il ragazzo si sporse per vedere se all'interno del panone ci fosse qualcosa che assomigliasse a una pergamena. «Un po' di più, faccia pure 2 pezzi», rispose. «Un altro così? Vedere? No, faccia pure un'altra fetta». Nel panone, però, non c'era nulla e il giovane se ne andò sbuffando. Tornai diverse volte al grande magazzino dopo l'orario di lavoro e assistetti ogni volta a scenette del genere. Nel giro di una settimana, tra i clienti si scatenò una vera e propria febbre dell'oro. Per gli scaffali un viavai di persone sempre più eccitate e frenetiche che si controllavano l'una con l'altra e contemporaneamente rovistavano tra i pacchetti e schizzavano via con aria trionfante. Le commesse, all'oscuro di tutto, si chiedevano cosa stesse succedendo. Mentre osservavo pensierosa, chiedendomi come concludere quella splendida burla, vidi avvicinarsi un uomo distinto, un dirigente facilmente distinguibile dai clienti perché indossava un completo a giacca e un'elegante cravatta. Il dirigente si fermò a parlare con una commessa, indicando uno scaffale con alcuni angoli vuoti. Di tanto in tanto prendeva appunti. Piano piano, come una lama di sottile sadismo, nella mia mente si insinuò un'idea che prese forma. Tornai a casa di volata a preparare le mappe finali. Il sabato pomeriggio ritornai con pergamene e occhiali scuri nel grande magazzino. Attenta a non sbagliare, perché questa volta le mappe avevano un senso ben preciso, le inserii nei punti strategici. Dopo un'ora arrivò la carica dei cacciatori e delle cacciatrici di mappe che sempre, con circospezione e tattica, cominciarono a girare tra gli scaffali. Finalmente le prime vennero scoperte. I clienti e le clienti, dovunque si trovassero, partirono per percorrere il tracciato segnato sulle mappe finali in loro possesso. Queste erano concepite in modo che da qualunque posizione, alla fine, i clienti e le clienti fossero costretti a salire al piano superiore. Strategicamente appostata all'arrivo, aspettavo con ansia l'incontro-scontro dei primi ad arrivare. Mi divertiva da matti pensare che in effetti il tesoro non esisteva affatto. Ridacchiavo tra me, figurandomi la faccia da scemi dei vincitori quando si fossero accorti di non aver vinto nulla se non una figuraccia. Ma eccole, stavano arrivando, prima incerte, poi scorgendosi l'un l'altra, timorose di arrivare per seconde, cominciarono a correre tutte verso un'unica direzione, l'ufficio del direttore generale. Come una valanga umana, signore, ragazzi, il pensionato, la mamma con la bambina per mano, tutti fecero irruzione nell'elegante ufficio dove uno sbigottito direttore sgranò tanto d'occhi. Dov'è? È mio! Sono arrivata prima io! Si sposti, non vede che qua sto già cercando io! Aia! Mi sta schiacciando! Mi tolga le mani di dosso! Schiamazzi e urtoni divennero le armi con cui gli sfidanti combatterono la loro ultima battaglia. Signori! Signore, vi prego! Urlò il direttore. Cosa succede? Cosa fate qua dentro? Aiuto! Lasci andare il mio telefono! Ma cosa? Andiamo, non faccia finta di niente. Siamo state tutte quante al gioco e adesso fuori il tesoro, niente scherzi. Ma quale tesoro? Ma quali scherzi? Di cosa state parlando? Finalmente, tra urla e strepiti, venne fuori l'equivoco. Noi non ne sapevamo nulla. Noi credevamo che fosse una vostra trovata pubblicitaria. Insomma, la gente, arrabbiata ma rassegnata, cominciò a sfollare, borbottando, e il direttore ricominciò a respirare. Ma il bello doveva ancora venire. In quel momento la signora dall'impermeabile, che ci aveva messo un po' di tempo a decifrare la mappa finale, arrivò trafelata nell'ufficio. Contemporaneamente suonò il telefono del direttore, che schiacciò il pulsante del viva voce. Direttore, sua moglie. Sulla voce della segretaria se ne inserì un'altra, sempre femminile, che strillò un sonoro: Ciao tesoro, volevo ricordarti che bla bla bla bla bla. La signora guardò il direttore sudato, poi la mappa, poi il telefono e improvvisamente capì tutto. Le tenebre si squarciarono e lei poté così prorompere in un energico: Il tesoro! Caspita, che bellezza, questo sì che è un premio coi fiocchi! E afferrato per la giacca, lo sconvolto direttore se lo trascinò raggiante fuori dall'ufficio, giù dalle scale, verso la felicità. Fine.